Arcai 2012, Mad Boy, Simone XX Tape volume 2. In certi casi bisogna avere delle buone amicizie, perché è facile incappare nelle infamate. Ricordatevi sempre bene di guardare negli occhi la gente con cui parlate. È la morale, Simone X. È la morale, Onibus. Al beat. È una serata come tante. È andata così, una serata come tante. Quattro cazzate in piazza senza mai un cazzo da fare. Giravano spliff quando arriva una volante. Ci salgono le ansie, tutto dobbiamo buttare. Tesi irrigiditi, io e i miei amici. Arriva st'auto rossa e blu che già non sono i miei colori preferiti. Dai su, buttiamo tutto sperando che non ci vedano. Non è andato lontano, lo trovano se lo cercano. Loro si avvicinano, eravamo quasi sull'attenti. Forse non si sono accorti, ci chiedono i documenti. Che ci fate? Le solite domande. Per cui sei cazziatone sempre con tono arrogante. Mentre noi quasi esultiamo se ne vanno. Ci prepariamo per la festa ed ecco che succede il danno. Uno dei due vede un sacchettino e si ferma. Sorride e dice adesso voi ragazzi ci seguite in caserma. Ragazzi, e ora come la mettiamo? Meno male che non avevate niente, Capolinea, non no. Salta fuori di chi è, vi tolgo la patente. Una a una, in giro, non fate più vita, capito? Vabbè, ma no, abbiamo già detto, non sappiamo niente. Ascolta ragazzo, facciamo così. Tu mi dici di chi è questo affare e te ne vai a casa tranquillo senza che nessuno sa niente, ok? No, capito capo, però non lo so. Ragazzo, allora, questo è quello che abbiamo trovato. Dimmi di chi è, chi te l'ha dato. E non ti facciamo niente amici come prima, capito? No, te lo giuro, non so niente. Allora, tu neanche lo sai di chi è questo affare qua? No, non so niente. Allora mi state prendendo per il culo. Mi devo ingattare veramente, ah? Allora, mi dici chi te l'ha dato? No capo, guarda, io domani lavoro, non so veramente. Visi pallidi anche se eravamo brilli. Han trovato 10 grammi ma non sanno di chi sono. Tranquilli, ci basta non parlare, vedrai che ci fanno uscire. Devo andare a lavorare, tardi io voglio dormire. Per ricostruire i fatti interrogati uno alla volta. Li lasciamo parlare anche se nessuno li ascolta. Minacce di continuo per sapere di chi è. Ognuno di noi lo sapeva e se l'è tenuto per sé. Perché è così che funziona nelle mie zone. Almeno così la ragiona la mia generazione. Come previsto dopo un po' ci fanno andare. Non ci han fatto niente, il fumo è l'unico. L'unica cosa a cui dobbiamo rinunciare. È un racconto come tanti e magari non interessa. L'ho raccontato perché ha una morale. Se ti beccano paghi, se no lo sbirro non ti arresta. Spiegatemi allora perché cazzo voi continuate a infamare. 1, 2, 3, prova, ci siamo o no? Ok, passata la morale. L'avete capito o no il pezzo? O siete ancora indietro? Ah? Simo X, Mad Boys, X-Tape Volume 2.